spettacolo avrà attinenze con questa musica? Lui è il mio autore dalla ex Jugoslavia preferito, risponde a nome di Boris Kovac, è veramente un fenomeno, è un compositore che non ha il tipico approccio Balkan, ma un'intersezione di suoni che comprende, sia collegandoci all'Yiddish precedente, anche alla sonorità tradizionale più occidentale, veramente un grande talento, ma non mi voglio dilungare. Ha come Srebrenica e lo spettacolo che sarà protagonista in una location commovente, per me di una bellezza, è il Museo della Civiltà Contadina, San Marino di Bentivoglio, così vicino a noi e così bello. E intanto do il buongiorno a Roberta Biaggiarelli. Buongiorno e benvenuta, Roberta. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, ho portato una colonna sonora anche attinente a tutto ciò, A come Srebrenica. Di cosa si tratta, Roberta? Ma purtroppo si tratta di una storia di guerra e il nostro tempo ne echeggia molte, purtroppo, sì. Anche in questi giorni tremendi. Io mi sono appassionata a questa storia, se si può dire, se posso usare questo termine, ormai 25 anni fa finiva la guerra in ex Jugoslavia con i patti di Dayton, più che altro si chiudeva il conflitto per una pace non certo di qualità, e nel luglio del 1995 proprio a Srebrenica veniva consumato l'ultimo genocidio compiuto in Europa da dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E questo luogo, dico sempre, per me ha rappresentato uno spartiacque. Conoscere i 3 anni di assedio a cui la piccola cittadina della Bosnia orientale è stata sottoposta e il genocidio efferato consumato di più o meno in una decina di giorni, poco più di una settimana, di 8.372 civili bosniaci, musulmani, bosniachi, è stata, ecco, la scoperta di una di un fatto, di un buco nero sul finire del Novecento, che per me in qualche modo ha costituito uno spartiacque nello stare al mondo e nel lavorare, sia da un punto di vista teatrale, appunto dentro al teatro storico, che poi è il lavoro che faccio da oltre appunto 30 anni, ma allo stesso tempo come persone, ecco, come donna italiana, europea, come cittadina del mondo, diciamo oggi. Scoprire questa vicenda per me è stato qualcosa veramente di lampante. Sì, e quindi da tantissimi anni porto in scena questo monologo teatrale che purtroppo è diventato un classico, mi verrebbe da dire. Certo, ricordo che per l'ottava edizione della stagione teatrale anno 2024 di Agorà, questo è da sottolineare per l'attenzione, certo, che hanno nel territorio di pianura così sottovalutato della nostra provincia, Villa Smeraldi e il contesto del Museo della Civiltà Contadina, ribadisco, è un luogo veramente magico. Oltretutto l'importanza di una rappresentazione teatrale per non dimenticare, per non vedere così lontana del tempo, ma come viviamo nel contemporaneo le situazioni altrettanto gravi, troviamo davvero dei tremendi parallelismi inquietanti. La storia dovrebbe insegnare, soprattutto quella recente, in questo caso purtroppo troviamo anche dalle notizie che non è a volte così, viene incontro a noi l'arte, il teatro, la rappresentazione, l'interpretazione, la denuncia, e il lavoro di Roberta Biaggiarelli ne sarà sicuramente un percorso di intensità, come appena stato descritto, di notevole importanza. Quindi vi invito alle ore 21 per domani a Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio per A come Srebrenica. Allora, hai portato l'incipit di questa rappresentazione, ci puoi parlare anche di palcoscenico e di collaborazioni, Roberta? Io questo sarai mio monologo da sola, è un tuo monologo. Sì, è un monologo, io neanche mi viene da chiamarlo monologo, io lo chiamo proprio testimonianza, proprio perché sì, per me e mi accompagno ormai da quasi 25 anni e io sono in scena da sola e la forza sta nella parola, perché ciò che c'è in scena è un assedio di parole, così proprio è stato concepito il lavoro tanti anni fa quando ha debuttato, ma è un lavoro mai fermo, mi viene da dire, sempre mobile, proprio perché alcuni dei criminali di guerra del conflitto degli anni 90 nei Balcani sono stati arrestati, nel frattempo sono stati processati al Tribunale Penale dell'Aia in Olanda, alcuni di loro, una piccolissima parte, sono stati consegnati alla giustizia. Vero è che quello che resta sul terreno, anche rispetto alle parole che dicevi poco fa, è che la guerra poi a un certo punto gli uomini la fermano, no? Ma allo stesso al contempo sul terreno resta veramente il dopoguerra e quello sembra non finire mai. Io in quei luoghi vado e vengo continuamente, in un andirivieni incessante. Ho abitato in Srebrenica 10 anni fa con la cooperazione italiana, ho avuto l'onore di ristrutturare la Don Culture, che è poi il teatro di Srebrenica, perché Srebrenica è una cittadina florida, comunque prima della guerra era un luogo di terme, era un luogo di campagne, certo, dove si coltiva la terra, ma allo stesso tempo dove l'industria, un'industria molto strana di batterie per navi, Tito aveva impiantato in questo luogo recondito in mezzo alle montagne bosniache un'enorme fabbrica per batterie navali dove lavoravano più di 600 persone, ma allo stesso tempo le terme davano lavoro ai cittadini, sì. di Srebrenica. Oggi è un luogo totalmente distrutto, fossilizzato su se stesso, e davanti alla fabbrica delle batterie navali c'è un luogo simbolico che tutti noi europei dovremmo visitare, che è il memoriale delle vittime di Srebrenica a Potoçari, una piccola frazione. Noi andiamo sempre e continuiamo a fare, per fortuna, viaggi della memoria verso la Polonia, verso la Germania, e che il nostro immaginario europeo dovrebbe anche visitare, e per fortuna molti lo hanno fatto, questo luogo della memoria che nel cuore dei Balcani, che sono Europa, non è un altrove geografico. No, non è così lontano, esatto. Non è che sia questo altrove, certo. Esatto. E sarà sabato 2 marzo, ovviamente 2024, Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina, a San Marino di Bentivoglio, il cartellone è quello di Agora A come Srebrenica, di e con Roberta Biaggiarelli. Da un tuo testo, quindi... Il testo in realtà l'abbiamo scritto in tre donne, io, Simona Gonnella, esatto, io sì, scusami, poi mi sono persa perché è una cosa che mi prende troppo la vita, certo. Le mie collaborazioni nella scrittura del testo tout court, perché per me il teatro è strumento, non è finalità. Il testo l'abbiamo scritto in tre, io, Simona Gonnella e Giovanna Giovannozzi. Simona ha anche fatto da occhio esterno, da regista, anche se un monologo, capite bene, il monologo sta sull'attore, sull'attrice che lo interpreta, poi cambia e muta nel tempo, soprattutto come nel mio caso, da 24 anni porto in scena questo lavoro e quindi te lo devi rivivificare ogni volta, e la mia linfa vitale, il mio nutrimento viene da quel luogo, viene dalla Bosnia stessa, dove io negli anni poi ho portato avanti altri progetti, e il pubblico che verrà poi domani sera avremo modo di raccontarceli, di scambiarceli, ecco. Il teatro è un pezzetto di un cammino più ampio, nel mio caso, certo. Verso Srebrenica. Quindi progetti futuri ce ne sono, chiaramente, immagino, e da questo poi avremo modo di risentirci con Roberta Biaggiarelli, intanto domani a Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio per la rassegna Agora A come Srebrenica. Ti ringrazio tantissimo e ti grazie, auguro buona giornata. Altrettanto, ciao. Buona giornata, ciao, grazie. Ciao. Grazie. Thank you. Boris Kovac, già l'abbiamo ascoltato in altri dischi, The Balkan Tango and The End of the World. Questa dolcezza e nello stesso tempo intensità ritmica nella playlist per la prima colazione di oggi, per iniziare insieme il mese di marzo. Stiamo volgendo al termine, a breve avremo i saluti e la presentazione della mattinata con il palinsesto di Radio Città Fujiko. In seguito, come ben sapete, poi linea Lady Pench Enciclopedico a Liberi Dentro. Per le 9:30 ci sarà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Un po' di musica e poi ritorneremo con il jazz live. Intanto gli Is It con Imaginary Man. A tra poco. Saluti per augurarvi un buon weekend a tutte le super mattiniere e i super mattinieri e presentare anche chi avrà motivo di collaborazione con i 103.1 nella redazione culturale con il Breakfast Club. E mi accura con grande piacere dare il buongiorno a Lorenzo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. E non parliamo di sfruttamento dei giovani, anzi tutt'altro, perché in redazione da un'oretta ho detto ok, mi aiuti a fare i saluti ed è già al microfono sui 103.1. Sarà in collaborazione per la nostra redazione e quindi assunto momentaneamente, certamente sarà una presenza che darà motivo di corredo per le nostre interviste, per i servizi, per le conferenze stampa e perché no anche per presenza in diretta. Sei a tuo agio in diretta? Sì, sì. Dai, mi sento bene, grazie. Sei di Rimini, quindi hai sangue romagnolo. Viva la Romagna e viva il Sangiovese, sempre grande passione territoriale e noi fiduciosi procediamo nella nostra mattinata. Come ho detto non finisce qui, anzi tra poco le dip enciclopedico e poi i Liberi Dentro e la rassegna stampa. I magazine torneranno a tenervi compagnia per lunedì, ma per quanto riguarda il weekend imminente io vi auguro un buonissimo weekend, magari anche con qualche raggio di sole, visto che marzo è il mese che accompagna la primavera, noi lo aspettiamo fiduciosi e con questo e con un caloroso abbraccio William e Lorenzo vi salutano e danno appuntamento a lunedì con il Breakfast Club augurandovi un buon ascolto e un buon venerdì. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao.